comunque andiamo, è molto facile essere fermati. Ogni volta se li incontriamo è molto facile essere sfortunati. Ogni volta che protestiamo è molto facile essere vessati. Ogni volta, ogni giorno è sempre uguale. Ti fermano anche questo e tu non hai fatto niente. Ti frugano delle tasche, non pare il trappotente. Se trovano una scusa ti fanno anche pagare. Se devi difenderti ti fa pure per mare. Ora va, te vuole. Ma che vuole? Quanti con il non farti sopravvivere. Se non sono un incentivo, se sono un animale. Se sono un animale, mi piace per farti spaventare. Se non sono un animale, comincia a suonare. Ma che vuole? Sbattati, sbattati. Ma che vuole? Le attive ragazzi, cantano l'uccello. Ti rompono i coglioni, proprio sul più bello. Quando con lo schifo arrucinando la piatta, consegnami la tavola, scelto pure mangi allora. Allora cari amici, la situazione è questa. Rimbocchiamoci le maniche e facciamogli la festa. Contro Stato e Polizia, bisogna usare la testa. Chi non occupa preoccupa, rivoluzione bestia.